متابع معكم. Adesso continuiamo con un'intervista con il dottor Abdel Sattar Qasem da Nablus, scrittore politico. In questo momento vorremmo fare qualche domanda sull'attuale situazione palestinese e la situazione dello Stato israeliano nei confronti dei palestinesi, e qual è la sua reazione dopo ciò che è successo a Tunis e ciò che sta accadendo adesso in Egitto. Dottor Abdel Sattar Qasem, buonasera. Come vede la situazione dal punto di vista degli analisti politici arabi che seguono i movimenti dei popoli? Già si vedeva un futuro cambiamento nel mondo arabo. Tutto ciò è stato inevitabile. Ogni sistema di dittatura cade, ed è successo così anche a Tunis. Quello che si crede adesso è che scenderà il sangue arabo nelle città e nelle strade arabe. Naturalmente non ci si aspettava che succedesse in Egitto. Ci stanno molti cambiamenti nei vari paesi arabi in questo momento, in Giordania, in Algeria, in Marocco. E se si vede bene, questa questione non è una cosa nuova. Già ci sono state delle scintille da 2-3 anni, non soltanto in questi paesi, ma anche nel Sudan, nell'Algeria e anche in Palestina, perché adesso si è arrivate in uno stato di autocoscienza che crea delle rivoluzioni e delle rivolte. Noi speriamo che i leader arabi prendano la cosa in modo più intelligente, in modo da non versare sangue di civili. Secondo lei, dottore, come hanno fatto gli avvenimenti di Tunisi a fare effetto sui vari paesi come la Giordania e l'Egitto? Purtroppo ci stanno molti furti, molta corruzione nei regimi dittatori arabi. Se si vede anche in Palestina ci stanno gli accordi con Israele, la corruzione palestinese che va in direzione di Israele. Anche la resistenza viene bloccata. Se si vede bene, sì, ciò che è successo in Tunisi, la stessa cosa che sta succedendo adesso in Egitto, che forse succederà in Palestina in futuro. Ha iniziato il movimento in Tunis con la motivazione dell'alzamento dei prezzi. Invece, se si vede in Cairo, anche per altri motivi. Secondo lei, come può influenzare ciò che è successo in Egitto ai paesi arabi e che punto di vista prende Israele? I paesi arabi adesso stanno prendendo la posizione della rivolta perché gli abitanti dei paesi arabi ormai non cercano più i soldi per mangiare, cercano una dignità, e speriamo che queste rivolte continueranno. Ci sta nelle scienze politiche la teoria del domino. Del domino, cade una pedina e tutte quante cadono dietro. Israele ha contato soprattutto sulla strategia di sfruttare i regimi arabi. Quasi tutto ciò che ha aiutato Israele a diventare ciò che è adesso sono stati i regimi arabi. Se cadono i regimi arabi, cade la maggior parte del cade tutto ciò su cui conta Israele. E gli arabi prenderanno posizione, si metteranno contro le dittature e metteranno molto in difficoltà anche Israele. Dottore, secondo lei qual è la situazione attuale, parlando della situazione attuale soprattutto dal punto di vista dei negoziati? cadrà, naturalmente Israele avrà molte difficoltà con gli accordi di pace perché conta sull'Egitto, conta sulla Giordania. Se la Giordania e l'Egitto cadono, ciò indebolirà molto Israele e anche il governo a Ramallah sarà molto in difficoltà. Questi accordi non porteranno a niente perché sono accordi con gente che non rappresentano i popoli arabi e la gente araba. Secondo lei continuerà la resistenza e continuerà la pazienza dei popoli arabi nella Palestina? Se si vede adesso la situazione, i fattori che hanno più aiutato Israele a tenere sotto il pugno di ferro la Palestina è stata la collaborazione dei regimi dittatori arabi. Forse cadrà l'Egitto, forse in futuro cadrà la Giordania e con questo cadrà tutto ciò su cui conta Israele. Se si vede anche nei popoli arabi, soprattutto in Giordania, è gente che si rivolta senza niente, si rivolta con i propri corpi, a mani nude. Naturalmente, se si vede, l'Egitto è un paese con una situazione molto difficile sulla soglia della povertà. Ogni giorno gli egiziani hanno bisogno di 450.000 pezzi di pane per vivere. Naturalmente anche dopo queste rivolte ci servirà un grande sforzo nel riuscire a diventare autonomi anche dal punto di vista economico e a riprendersi da questa crisi attuale anche dopo la rivolta e da un'autoindipendenza. Un popolo è libero quando nessuna persona in questo popolo ha fame, nessuno ha bisogno di servizi essenziali. Dottor Abdussattar Qasem, secondo lei la situazione è complicata in questa zona araba? Sì, certamente. Ciò che è successo dopo la rivolta di Tunis adesso non succederà mai più come c'è stato prima di Tunis. Adesso questi governi dittatori non hanno più la possibilità di continuare ciò che facevano prima perché adesso il popolo è disposto a sacrificare, è disposto a lottare contro questi regimi e contro questi governi. Adesso noi siamo in un nuovo secolo, dopo una nuova alba. Se si vede adesso nelle strade di Tunis e nelle strade dell'Egitto sono stati distrutti, tutto ciò su cui contavano i servizi segreti e il governo di questo governo dittatore. E questo vuol dire che l'imposizione dello Stato di Israele contro i regimi arabi si fermerà, ma ci sta una grande paura da ritorsioni da parte, anche indirette da parte dell'America o di stati occidentali come la Gran Bretagna. Dottore, lei crede che verranno prese delle precauzioni e verranno presi dei modi per riuscire a contrastare queste rivolte? Se si vede, sono finite anche le vittorie di Israele, non ci sarà nessun metodo duro contro questi paesi perché ormai Israele ha perso il suo grande potere, non è più il grande potere del Medio Oriente che ci stava prima. Se prende posizione contraria a questi popoli, si ritroverà in una situazione molto difficile. E in questo momento la stessa cosa anche alla Casa Bianca, perché hanno paura anche loro di questi cambiamenti nelle zone arabe. Le loro vecchie attività in queste zone ormai sono finite. Adesso i paesi arabi prendono posizione verso l'unità, verso la liberazione. Lei, secondo lei, il governo a Gaza e a Ramallah prenderanno delle precauzioni non mai prese prima per paura? Il governo di Fatah deve uscire dai negoziati, dalla strada di Oslo, perché non si può riuscire ad arrivare a una, non si può riuscire a raggiungere un accordo con questi accordi. Adesso, se vediamo, se il governo vuole rimanere sulle stesse strade degli accordi di Oslo, si troverà molto in contrario con molte fazioni. Naturalmente, dai vari paesi arabi il tutto non è molto, molto accettato. Se adesso vediamo gli israeliani, soprattutto Lieberman e Netanyahu, se si vede bene, minacciano degli altri attacchi a Gaza. Secondo lei, questi attacchi, se ci saranno questi attacchi, Israele nel 2008-2009 ha lanciato un'offensiva contro Gaza senza riuscire ad arrivare a degli obiettivi precisi. Israele non può prendere posizione, non può cominciare una guerra perché sa di non poter riuscire a finirla. Israele evita il confronto diretto. Israele vuole provare la sua esistenza. In tal modo deve fare degli attacchi. Forse ci saranno anche offensive dalle altre parti, non da Israele. Se si vede anche dal sud del Libano, ci sta molto movimento dal punto di vista di resistenza, e questo qui potrebbe essere un fattore pro-Palestina. Il popolo vuole fermare la divisione, vuole un'unità nazionale. Questo qui è il punto di vista generale della gente. Se si vede anche l'attuale situazione, ogni giorno ci stanno demolizioni, ogni giorno ci stanno uccisioni, ogni giorno ci stanno arresti, ci stanno attacchi da coloni. La situazione attuale è molto difficile. Lei qual è il suo parere? Secondo lei chi è che ci ha messo in questa situazione? Secondo lei non è stato Yasser Arafat che ha aiutato lui e insieme agli altri che hanno accettato di trattare Oslo? Noi abbiamo superato gli accordi di Oslo, potrebbe essere uno dei motivi, ma però l'abbiamo lasciato a parte, perché Israele non riconosce neanche più gli accordi di Oslo. Non è vero, gli accordi di Oslo non danno nessun diritto ai palestinesi. Negli accordi di Oslo non ci sta niente contro la requisizione delle terre, non ci sta niente per uno Stato palestinese, non ci sta niente per fermare gli insediamenti. Se si vede gli accordi di Oslo, purtroppo negli accordi di Oslo i palestinesi hanno venduto loro stessi. Naturalmente anche Israele si è messa contro gli accordi di Oslo, perché naturalmente Israele non vuole tenere in mano tutta la situazione dei palestinesi. I palestinesi che dicono che Israele è contro gli accordi di Oslo si sbaglia, perché purtroppo sono stati i palestinesi stessi a firmare la loro condanna a morte. Bisogna vedere in questi 18 anni dagli accordi di Oslo fino adesso, bisogna prenderli e buttarli nella spazzatura e prendere coloro che hanno accettato di trattare gli accordi di Oslo e che continuano questi negoziati e punirli per i loro reati di tradimento contro il popolo palestinese. Adesso si parla di insediamenti, si parla di fame, si parla del popolo. L'ultima conferenza di Salam Fayyad ha detto che ci stanno 115.000 disoccupati a Gaza e molti anche nel West Bank. Purtroppo la Palestina soffre di fame ed i palestinesi sono un popolo sotto la linea della povertà. Sono le banche, siamo attaccati alle banche, siamo attaccati ai debiti. Secondo lei chi è stato a organizzare tutto questo? Non siamo stati noi, se sono stati Abbas Arafat. No, questa qui è una responsabilità in generale. No, non siamo tutti in una, nella stessa barca. Chi mette sua mano nella mano di Israele non è sulla mia stessa barca. Che se ne vada lui e gli israeliani altrove. Questa qui è una constatazione sbagliata. Quando è stato firmato gli accordi di Oslo, ha lavorato il governo palestinese per distruggere molte produzioni palestinesi su cui contava la Palestina. Per esempio, la produzione di scarpe a Hebron, a Betlemme e Bejala le stoffe, a Tulkarem i tessuti l'hanno distrutto. Hanno distrutto anche l'economia dei contadini. Questa qui è la politica della Cina, della Turchia e di altri paesi. Non c'entrano niente con gli accordi di Oslo. Secondo lei, noi come popolo palestinese potremmo creare un arrivare ad un compromesso per fermare questa situazione delirante? Non si può creare un'unità nazionale con la collaborazione di sicurezza tra virgolette con Israele? Israele esiste ed è un fatto. Come possiamo chiudere gli occhi e dire Israele non esiste? Israele esiste. E io so che esiste, ma però io non voglio collaborare con Israele o aiutarla. Se tu vuoi aiutarla a collaborare con lei, allora io sono per una strada e tu sei per una strada. Io non sono disposto a mettere la mia mano nella mano del nemico. Ci sta chi dice che non riconosce Israele, ci sta altri che dicono noi prendiamo ok i confini del 67 ma non riconosciamo Israele. Ma non bisogna mischiare queste cose insieme. Adesso, se io posso creare uno Stato a Gerico, io lo farei. Ma uno Stato palestinese autoindipendente senza intromissioni israeliane, naturalmente con il ritorno dei profughi palestinesi alle loro terre, alle loro case, nei territori occupati nei confini del 1948. Noi non vogliamo confondere le cose, ma non aspettatevi da me di mettere la mia mano nella mano di qualunque palestinese riconosca Israele. Secondo me tutti i palestinesi, la maggior parte, hanno il mio punto di vista. Ringraziamo molto per la collaborazione e arrivederci.